Ma il più matto di tutti era Keith Moon, uno che ci dava dentro di brutto quando si parlava di eccessi di ogni genere. Beh, un personaggio così era la dannazione di ogni tour manager, perché ogni notte Keith ne combinava di ogni e per poter dormire prendeva un sacco di cose. E poi per svegliarlo era una vera tragedia. Il 17 febbraio 1974 era stato organizzato un concerto al Rainbow di Londra e oltre a Keith Moon c'era Robert Plant, Jimmy Page, Ronnie Lane. Però, non vedendolo arrivare per le prove, nel primo pomeriggio il folk singer Roy Harper, che doveva suonare anche lui quella sera, andò con un paio di componenti della crew alla casa del batterista degli Who. Beh, ci vollero un paio d'ore per poterlo svegliare e portarlo nell'auto. Roy, che doveva suonare, come dicevamo, anche lui quella sera, confidò a Keith di essere un po' stanco. Allora Keith Moon aprì la sua valigetta. Beh, dentro era una specie di farmacia, piena di barattoli di pillole di ogni colore. Estrasse una grossa pillolona nera e disse a Roy di prenderne una. Gli avrebbe fatto dimenticare la stanchezza magicamente per qualche giorno. Poi gliene diede un'altra, questa per tornare normale. E poi un'altra ancora, per poter finalmente dormire. Ovviamente, se Roy Harper avesse preso anche solo una di quelle pillole che Keith gli allungò in quella macchina, non avrebbe certamente suonato quella sera. Forse per almeno 3 sere. Dunque Roy Harper mise le pillole in tasca e lì rimasero per lungo, lungo tempo. E nelle tasche di Chrissy Hynde, lei ci assicura che ci sono solo un paio di monete. Brass in pocket, coi Pretenders. Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailed leaning. No reason, just seems so pleasing. For Pretenders, in assoluto uno dei miei gruppi preferiti della fine degli anni 70. Ragazzi, questo Brass in Pocket è incluso nel loro primo album, che proprio in questi giorni è uscito in una versione deluxe, insomma pieno di outtakes, di singoli e cose varie. Vi consiglio l'acquisto perché ne vale veramente la pena. E dai Pretenders a un'altra grandissima band di ogni tempo. Ah, sono generoso questa mattina, vi voglio solo dare il meglio, come del resto tutte le mattine. Pink Floyd, us and them, a Lurly Bird Special. And in the end, give them a quick short, sharp shock. They don't do it again. Dig it. I mean, he got offline because I couldn't give him a fraction. I did it once. It's a big difference in my own life, isn't it? I mean, good manners don't cost nothing, do they? Hey. Thank you. to go, no, no. Blood, sweat and tears go down gambling. Mercoledì nel mezzo del cammin della settimana. Se siete qui vuol dire che siete i più furbi in circolazione, perché qui a Rock FM li vogliamo solo furbi, i rock and rollers. Early Bird Special, io sono Chuck Bird e questi sono i Simple Minds, New Gold Dreams. Dream. New Gold Dreams. Sai cosa sto sognando in questo momento, Cherie? Sto sognando una bella tazza di caffè nero bollente per tirarmi un po' su, perché, ragazzi, è duro anche per Chuck Bird essere qui tutte le mattine dalle 6 alle 7. Eccola qui la mia tazza di caffè nero bollente. Thank you very much, ma sweet Cherie. If I could, I would let it go. Al vecchio Chucky Boy piace raccontare un sacco di fregnacce, questo sarà capito. Grandi storie di rock and roll e piccoli pettegolezzi. Mi piace anche scoprire quali sono i motivi che hanno spinto i grandi protagonisti della storia del rock a fare quello che hanno fatto, le loro influenze artistiche e così via. Keith Richards, per esempio. Secondo voi, qual è stato il suo idolo da teenager? Ecco cosa disse una volta quando fecero la fatidica domanda: se non fossi Keith Richards, chi vorresti essere? E lui rispose candidamente: c'è stato un tempo nella mia vita in cui l'unica cosa che avrei voluto essere è essere Chuck Berry. Per me è stato sempre l'epitome del suono rhythm and blues e del rock and roll. Era un modo di suonare bellissimo, senza forzature, e il suo senso del ritmo rappresentava la perfezione. I dischi che Chuck ha fatto negli anni 50 rappresentano tuttora il suono di chitarra rock and roll ai massimi livelli, specialmente quando aggiungi la scrittura e lo stile di canto e tutto il resto. No, Chuck Berry, non Chuck Bird. Eccoli qui i Rolling Stones. I wanna be your beast of burden.

Springsteen, Thunder Road, graditissimo ospite qui all'Early Bird Special. A proposito di ospiti, vogliamo vedervi tutti, tutti voi, questo sabato all'Alcatraz, perché c'è la grande festa di Rock FM, il compleanno, insomma, venite a spegnere le candeline insieme a noi. E con noi questa mattina, Animals, The House of the Rising Sun. Oh, is when he's on a drum. Animals, House of the Rising Sun. Loro hanno deciso di concludere questa puntata dell'Early Bird Special. Non potevamo scegliere canzone migliore, secondo me. La casa del sole che nasce, insomma. E il sole è quasi alto, non altissimo a quest'ora, ma se avete scelto di aspettarlo insieme a Rock FM, avete scelto la cosa migliore. Da Chuck Bird è tutto, la sua missione finalmente si conclude qui. Vi lascio con i restanti programmi da Rock FM, in particolare con Pane, Burro e Rock and Roll. Noi ci risentiamo domani mattina, puntuali alle 6, con Early Bird Special. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!